voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Where in hell are you from anyway, Private? Sir, Texas, sir! Holy dog shit, Texas, only steers and queers come from Texas, Private Cowboy. And you don't much look like a steer to me, so that kind of narrows it down. Probabilmente spezzone dopo spezzone molti fra voi hanno individuato il film che caratterizza Eclettica questa settimana. Magari non ne avete la certezza, dovrete aspettare la fine della settimana per averla, recuperando la playlist di questa trasmissione in uno dei modi che avete a disposizione, lista nera o non lista nera. E nello spezzone cinematografico che ha aperto questa seconda parte del volume numero 3 di quest'oggi sono due membri della formazione, uno di Fort Worth e l'altro di Austin. Quello di Fort Worth si chiama A, la lettera A, quello di Austin si chiama D, la lettera D. Loro si dichiarano punk, però avete sentito che è un punk un po' particolare, un punk con molto sapore di hip hop nel brano ascoltato quest'oggi. Dopo i Best Friends è la volta di un'altra novità, di un gruppo che però già conosciamo, il Lavender Diamond, gruppo californiano uscito con autoproduzione che è stata notata da un paio di etichette, quindi è stata poi ristampata e ripubblicata. Ecco, questo gruppo, di nome Lavender Diamond, sta per uscire con un album, il primo album della carriera, esattamente l'8 di maggio, Matador negli Stati Uniti, Rough Trade in Europa per quanto riguarda le etichette, e il brano che ci ascoltiamo da questo album non si differenzia molto nel titolo rispetto al singolo che già conoscevamo da qualche mese a questa parte. Si tratta di Open Your Heart. Streets are low when you have to go. Where are you running to? Settembre era cominciato con un caldo fuori dell'ordinario. In uno di quei pomeriggi di primo autunno, quando le giornate sembrano protrarre la torrida calura estiva, il giovane magistrato Christoph Comives esaminava nel suo ufficio gli atti delle cause di divorzio. Una, in particolare, interessava il giudice, poiché, sia pure alla lontana, egli conosceva le parti in causa. Lo sventurato eroe dell'udienza, fissata per l'indomani, il marito, un giovane medico di una certa fama, direttore del laboratorio chimico di uno degli ospedali di Budapest, era stato compagno di scuola di Comives. Avevano frequentato insieme le medie e in seguito, ai tempi dell'università, si erano di tanto in tanto incontrati in qualche occasione mondana, alle serate danzanti e alle riunioni studentesche. Il giudice ricordava sempre con piacere quel suo compagno modesto, i suoi modi discreti, il suo contegno riservato. Questo era l'incipit di Divorzio a Buda, di Sándor Márai. Thank you. qualche accenno a quanto appena ascoltato o quanto state per ascoltare, poi il dettaglio, come sapete, lo trovate altrove. Per esempio, del brano appena ascoltato vi do solo il nome del progetto Arboretum, che state sentendo da pochi giorni a questa parte all'interno di Eclettica, invece da qualche settimana in più sentite il nome, su cui anche io vado con sottolineature che così rientrano un po' nel folcloristico, il nome di Soul Seppi, artista australiana però da qualche anno di base a New York, che prima di tutto, questo lo ammetto, mi aveva colpito con la sua musica. Poi ho trovato anche sicuramente motivi di interesse nelle foto che nella rete circolano a nome Soul Seppi, e poi definitivamente l'altro giorno sono crollato quando ho visto su YouTube proprio il video della canzone che state per ascoltare, Slow Fuzz.

A quell'ora, nella stanza dal basso soffitto a volte, l'oscurità del tramonto era più densa di quanto non lo fosse all'aria aperta. Dalla finestra spalancata entrava a ondate il caldo afoso dell'estate incipiente e i lampioni a gas emanavano una luce verdognola tra i vapori del crepuscolo. Questo era l'incipit dei I Ribelli di Sandor Mare. What you gonna do with your hands now? Are you gonna spank the monkey and go? Are you gonna try the yogurt with honey and garlic? Or are you gonna spell Satan backwards? It is alright, whatever ever you do. Yes, it is alright. Eclettica. Stagione numero 13, settimana numero 31, volume numero 3, indice Two Gallants, Low Fidelity All Stars, diaframma Bright Eyes e Toys Orchestra, Marsilio Agro e il duo Maraviglia, Best Friends, Lavender Diamond, Arboretum, Soul Seppi, Bar, Cannes.